Ed ora i mesi. Now the months. Come al solito, ascolti e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Cominciamo. Gennaio. January. Gennaio. Febbraio. February. Febbraio. Marzo. March. Marzo. Aprile. April. Aprile. Maggio. May. Maggio. Giugno. June. Giugno. Adesso una pausa per il test sui primi sei mesi. Come nell'attività per i giorni, ascolti i nomi di due mesi, per esempio gennaio, febbraio, e poi dica il mese che viene dopo, marzo. E poi ripeta la risposta esatta e i tre mesi in ordine, così: marzo, gennaio, febbraio, marzo. Capito? Bene. Ed ora a lei. Gennaio, febbraio, marzo. Gennaio, febbraio, marzo. Aprile, maggio, giugno. Aprile, maggio, giugno. Febbraio, marzo, aprile. Febbraio, marzo, aprile. Facile, vero? Bene, adesso continuiamo con gli ultimi sei mesi. E come al solito, ascolti e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Luglio. July. Luglio. Agosto. August. Agosto. Settembre. September. Settembre. Ottobre. October. Ottobre. Novembre. November. Novembre. Dicembre. December. Dicembre. Un'altra pausa per un altro test, come nell'attività precedente. As in the previous activity. Come nell'attività precedente, ascolti i nomi di due mesi e dica il terzo. Dopo ripeta la risposta esatta e i tre mesi in ordine. Capito? Bene, ecco i primi mesi. Agosto, settembre, ottobre. Agosto, settembre, ottobre. Ottobre, novembre, dicembre. Ottobre, novembre, dicembre. Luglio, agosto, settembre. Luglio, agosto, settembre. E infine per i 12 mesi. Ascolti i nomi di due mesi, il primo e il terzo, per esempio giugno, agosto. Nella pausa dica il secondo mese, luglio. Dopo ripeta la risposta esatta, luglio. Giugno, luglio, agosto. Capito? Bene, ecco i primi due. Luglio, settembre, agosto, luglio, agosto, settembre, marzo, maggio, aprile, marzo, aprile, maggio, dicembre, febbraio, gennaio, dicembre, gennaio, febbraio.